Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti cari gastronauti, cari radioascoltatori. Ebbene, l'ultimo dell'anno è vicino, Natale purtroppo è già passato, però continuano diciamo nelle case, nei negozi, nei ristoranti a così far bella mostra i dolci, questi dolci natalizi che dal nord al sud italiano veramente sono tanti. Ebbene, non solo panettone, perché tutti parliamo sempre di panettone, di pandoro, ma in realtà in giro per l'Italia, dicevo appunto dal nord al sud, ci sono tantissimi prodotti dolci che diciamo sono tipici di questo periodo. Magari sono meno noti, alcuni sembrano quasi scomparsi, ma ci sono ancora. E allora noi andremo alla ricerca di questi dolci per raccontarvi un po' cosa sono, ma anche la storia, perché ognuno di questi prodotti ha una bellissima storia e quindi perché non raccontarla? In fondo le leggende sono il pane, mi viene da dire, dei prodotti e dei cibi, quindi raccontiamole così, per così dire, sogniamoli anche attraverso il racconto. E allora io vorrei cominciare appunto a parlare di due prodotti che è difficile trovarli se non nei luoghi di produzione o nelle vicinanze dei luoghi di produzione. Ebbene, io vorrei partire da Ferrara dal pan pepato, perché sicuramente, come dicevo, pochi probabilmente lo conoscono, però ha lunghissime tradizioni a Ferrara e poi ha altre tradizioni anche in provincia di Terni, quindi sono diciamo due aree, due territori che sono importanti per questo prodotto. Allora io voglio cominciare da Susanna Tartari, che è appunto vicepresidente della Proloco di Ferrara, che è l'associazione che porta avanti, che ha portato avanti con anche rievocazioni storiche questo prodotto. Buongiorno Susanna. Buongiorno a voi. Scusate la voce un po' così. Le feste fanno anche questo. Sì, sì. Senti, io vorrei che lei ci raccontasse, prima di arrivare a cos'è il prodotto, un po' la storia di questo pan pepato. Beh, intanto un appunto, questo prodotto non lo troviamo solo a Ferrara o a Terni, ma anche a Siena, infatti ce lo contendiamo un po' con Siena. E è una storia che è lunghissima, partiamo ancora dall'antica Persia, poi per arrivare ai giorni nostri, perché si leggenda che proprio in Persia nascono i primi pani speziati. E quindi... Quindi diciamo che è un prodotto di lunghissima tradizione. Molto, molto lontana, proprio perché essendo di facile produzione per l'area appunto da dove provengono questi pani, per loro era facile reperire le spezie, no? Sembra che proprio ne facessero anche un uso abbastanza frequente, insomma. E come ha fatto arrivare a Ferrara? Beh, arriva a Ferrara durante un lungo percorso, insomma, siamo attorno all'anno 1000 e un frate, questo frate Gregorio, attraverso le sue vicissitudini, insomma, porta in Europa, fa conoscere in Europa questo pane speziato, e poi piano piano, come noi sappiamo benissimo, l'Italia era l'autostrada sul Mediterraneo per tutti coloro che andavano in ambito arabo a studiare anche la medicina e la scienza, no? Perciò c'era un via vai abbastanza intenso sulla nostra terra, e ovviamente sulla nostra terra vengono poi deposte molte tradizioni anche, ed evolvono anche moltissime ricette enogastronomiche. Ecco, ci spiega cos'è appunto la ricetta, più o meno cos'è il pan pepato, perché pane si capisce, quindi l'ha giustamente anche detto lei, pane speziato, però tra l'altro poi lei ha parlato di Siena, a Siena forse è molto più diffuso il pan forte del pan pepato. E, ma da alcuni anni, da una decina d'anni, addirittura loro stanno già facendo una richiesta di denominazione di origine controllata o di prodotto, adesso non ricordo bene, mi dovete scusare in questo senso, però anche Siena detiene il titolo di avere un pan pepato. La stessa cosa poi vi posso garantire, ho assaggiato anche ad Anagni un pan pepato. Ognuno ha ricette diverse, molto simile nella radice, perciò ovviamente partiamo da una base di farina, e acqua e zucchero, a cui vengono poi aggiunte determinati ingredienti che sono poi appunto le spezie, e i frutti canditi e le frutte secche come le mandorle, le nocciole, che possono poi variare appunto da regione a regione. Ecco, guardi, abbiamo con noi appunto un produttore importante di panforte senese, un artigiano, Stefano sì. Borselli del Forno Lattore di Pelago. Buongiorno Borselli. Buongiorno. Buongiorno. Senta Borselli, che differenza c'è tra il panforte e il pan pepato? Ma diciamo che il pan pepato è l'origine, forse, non è ancora certo, noi abbiamo fatto delle ricerche, si risale nel tardo medioevo a partire dal 1000, al 1200 nel territorio senese. Il pan pepato prevede, una ricetta che prevede l'utilizzo oltre alle spezie del pepe, invece il pan forte sembra sia nato più come un impasto di pane con della frutta un po' fermentata, per questo il termine antico era pan fortis, diciamo che aveva un gusto un po' acidognolo, molto più marcato rispetto al pan pepato. È stato ingentilito nel 1280, che ha preso poi il nome di pan forte in vero senso della parola, perché era fatto dagli speziali, in quanto a quell'epoca le spezie erano costosissimo, lo facevano solo gli speziali, non era un cibo, il pan forte, il pan pepato dedicato a tutti, insomma erano per più abbienti. Senta, lei produce sia il pan forte che il pan pepato o solo il pan forte? No, io faccio solo il pan forte. Ecco, volevo chiederle, poi lo chiederò anche a Susanna, il pan forte ancora, c'è richiesta del pan forte durante questo periodo? Ma noi produciamo in biologico e quindi siamo riusciti anche a selezionare materie prime di un notevole spessore dal punto di vista della qualità, sì, e siamo riusciti a far mangiare il pan forte a chi proprio lo detestava, insomma. Ah, perché c'era qualcuno che lo detestava il pan forte? Sì, perché ci sono tante persone che non apprezzano il candito. Ah, è vero, anche sul panettone, è verissimo, ci sono anche i panettoni, diciamo, ormai molta gente li produce senza canditi perché c'è questa esatto. Ritrosia, sicuramente. Sì, sono un po' riottosi. Senta Borselli, rimanga un secondo con noi che sentiamo, andiamo a Ferrara appunto nella patria, una delle patrie del pan pepato da Susanna Tartari. Volevo chiedere questo, Susanna, in questo momento, diciamo, durante il periodo delle feste, torna il pan pepato nelle famiglie ferraresi, torna nei negozi, torna nella produzione? Beh sì, cioè, abbiamo un tripudio di pan pepati ovunque, ovviamente. Nelle famiglie, le devo dire, sento sempre meno famiglie che lo producono, e questo un po' anche nella mia famiglia, fino a una decina di anni fa veniva proprio confezionato, però insomma è un lavoro molto molto pesante da produrre in casa, perciò insomma lo sentiamo sempre citare meno nelle famiglie, nei negozi, ovvio, nelle pasticcerie, nel centro storico vediamo tutte le vetrine proprio in pompa magna, arricchite dai nostri panpepati, insomma. Quindi c'è ancora una tradizione che regge. Voglio tornare appunto da Stefano Borselli, che appunto produce panforte senese, tra l'altro è un forno, quindi questo dimostra appunto il discorso pane, che è sicuramente pane e spezie, quindi si può produrre benissimo nel forno. Senta Borselli, Siena ha questa grande tradizione, anche una tradizione industriale su questo, la produzione artigianale è ancora molto diffusa del panforte? No, non troppo. Quindi è difficile? No, diciamo è un tipico dolce natalizio, ma non abbiamo visto quasi nessuno che si cimenta in casa come tradizione a farselo, insomma, anche se la ricetta non è difficile, insomma, può essere benissimo, uno si può anche, può avere anche un approccio casalingo, però non abbiamo mai, quasi mai sentito nessuno e se lo fa da sé. Senta Stefano, voi lo producete tutto l'anno o solo in questo periodo? Ma senta, noi lo produciamo solo nel periodo di Natale, però nella sua terra d'origine, che è il senese, viene fatto tutto l'anno. Io non voglio entrare in polemica con i nostri amici e colleghi senesi, figurati, non voglio far campanilismo, però abbiamo visto in tanti posti è stato molto, molto snaturato da quello che era la tradizione, insomma. Si sta ritornando un po' adesso, visto nelle migliori pasticcerie, a un prodotto valido, ecco. Bene, io ringrazio Stefano Borselli, Forno La Torre, Pelago, in provincia di Firenze, e Susanna Tartari, vicepresidente Proloco di Ferrara. Vi auguro buon anno a tutte e due, e spero che appunto il pan pepato e il pan forte tornino ad essere protagonisti come lo erano un tempo. Linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. Questa canzone di Ornella Vanoni mi è molto cara, perché mi ha accompagnato in una mia serie televisiva un po' di anni fa per un centinaio di puntate, quindi la rimetto sempre volentieri e la trovo veramente adatta quando si parla di cibo, anche se in questo momento non parliamo di cioccolato, ma parliamo di quei dolci che non hanno il trono natalizio come il panettone o il pandoro, ma di quei dolci che sono caratteristici di molti territori italiani. Abbiamo parlato del pan pepato, abbiamo parlato del pan forte, magari qualcuno neppure le ha mai sentiti citare, eppure ci sono e sono dei dolci molto intriganti. Quindi infatti abbiamo sentito di pane e spezie. Bene, però quando si mangiano questi dolci, poi parleremo di torroni, di mandorlati, parliamo di cubaita, parleremo insomma di tutta quella che è la tradizione dolciaria italiana dal nord al sud, e vanno accompagnati questi dolci con i vini, si possono accompagnare oppure con i distillati oppure con cos'altro. Ebbene, ora lo chiediamo a un esperto del settore, un suggeritore di vini, chiamiamoli così perché ormai non fa più il sommelier, quindi è un suggeritore di vini ed è un grande esperto di vini. Buongiorno Federico Graziani. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Federico, ma secondo te torrone, mandorlato, panforte, questi, diciamo, questi dolci molto particolari natalizi, possono essere abbinati al vino o è meglio di non abbinarli? Beh, diciamo che possono trovare un avvicinamento con alcune tipologie di vino abbastanza non troppo comuni, come il Barolo Ghinato, come Verduzzo, credo per il torrone potrebbe essere una buona proposta, oppure un Recioto di Gambellara, vini che abbiano comunque una bella ricchezza, ma sicuramente l'abbinamento con i distillati forse è più vicino dal punto di vista dell'equilibrio. Ecco, cosa possiamo abbinare, quale tipologia di distillati? Beh, dipende chiaramente dal torrone, dagli ingredienti che vengono utilizzati. Da un torrone più classico anche un buon distillato di uva di vinaccia potrebbe essere, per torroni con il cioccolato, per pan papato sicuramente rum o distillati invecchiati a base di vino, a base di uva. Sì, perché abbiamo sentito che il pan forte e il pan pepato sono molto speziati, quindi sicuramente l'abbinamento non è semplice o facile con un vino. No, certo, infatti questi aromi di spezie molto bene si legano a, per esempio, alle sensazioni di alcuni rum piuttosto invecchiati, come alcuni rum agricole delle Antille francesi, oppure anche in alcuni casi con la speziatura di qualche whisky, soprattutto se delle isole, insomma. Whisky torbato o whisky, diciamo? Sì, non particolarmente torbato, forse delle Highland che hanno quella quella matrice, ma non così espressa come per esempio quella delle piccole isole. Ecco, rimani con noi perché ora andiamo in Sicilia alla dolceria Buon Aiuto di Modica da Franco Ruto. Buongiorno Franco. Buongiorno Davide, buongiorno a voi tutti. Anche perché c'è una grande tradizione siciliana appunto di dolci di Natale che non siano il panettone o il pandoro o altri. Ce n'è uno in particolare che è la cubaita, già il nome mi affascina. Allora io voglio che Franco Ruta ci dica un po' l'origine di questo nome e poi anche scopriamo cos'è la cubaita. Sì, certo, ci sono dei dolci tradizionali che resistono ancora, altri erano passati nel dimenticatoio e noi li abbiamo ripresi. Cubaita in effetti viene da cubaiti arabo, quindi qualsiasi forma torronata. Quando in genere parliamo di cubaita parliamo del torrone di sesamo e miele, e quando parliamo di miele, come per gli altri dolci che accenneremo, di cui parleremo dopo, parliamo del miele di timo, che negli iblei è ancora una specialità assoluta. Quindi la cubaita specificatamente è il torrone di sesamo e miele, che in dialetto viene detto giugiulena. La cosa interessante, volevo dire, ed è successa qualche mese fa, entrando una signora del Marocco con la sua bambina, mi sono accorto che rivolgendosi alla bambina la chiamava giugiulen. Quindi la giugiulena è anche in dialetto, e quindi nel mondo arabo, sinonimo di delicatezza, di piccolezza. Franco, è una cosa che mi ha entusiasmato. Ti interrompo perché abbiamo parlato appunto di miele di timo, la cubaita. Allora io chiedo a Federico Graziani, che è il nostro esperto di vini, in linea con noi, di dire quale può essere un abbinamento adatto alla cubaita, Federico. Beh, devo dire, dalla descrizione meravigliosa che abbiamo appena sentito, c'è un vino che credo possa avvicinarsi in maniera esemplare, e sono i vecchi Marsala, i vecchi Samperi o i ventennali di De Bartoli o anche quelli di Florio. Insomma, sono credo vini che magicamente riescono ad incontrare questi profumi. Bene, io devo dire che hai nominato Marco De Bartoli e devo dire che lo devo ricordare sempre con tanto affetto e tanta amicizia per gli straordinari prodotti che lui ci ha dato, e quindi vale la pena sempre di pensare a questo personaggio. Ma torniamo a Franco Ruta, appunto. Io, Franco Ruta, la cubaita e giugiolena sono due modi però diversi di diciamo denominare forse lo stesso prodotto di due aree della Sicilia. In effetti giugiulena si riferisce al sesamo e non al torrone. Sono d'accordo sull'accoppiamento che poco fa è stato fatto e che noi abbiamo provato, ed effettivamente è un accoppiamento felice. Forse un po' meno con gli altri due dolci di cui volevo accennare. Prego, che prego. La cedrata e l'aranciata. L'aranciata è un torrone fatto con bucce d'arancia tagliate sottilmente e poi cotte nel miele fino a caramellare. La cosa particolare che potrebbe interessare gli ascoltatori è che, essendo queste bucce d'arancia tagliate sottilmente, nel periodo di Natale venivano affidate alle famiglie dei calzolai, perché essendo abili di trincetto erano abilissimi nel fare questo lavoro, questo secondo lavoro. L'altro dolce è la cedrata, che utilizza, come si evince, il frutto, quindi il cedro ancora acerbo, ma anziché essere tagliato a strisce, come dicevamo prima per l'aranciata, viene grattugiato, e poi questo prodotto ottenuto viene sempre lavorato con il miele di timo. Una cosa particolarissima che abbiamo riscontrato in questi ultimi mesi, perché siamo nella fase di completamento e stiamo pubblicando un saggio storico su Buon Aiuto come famiglia e come impresa, in un testamento di metà dell'Ottocento riscontriamo il cedrato, che è una cosa completamente diversa, e volevo semplicemente accennarlo. Praticamente i cedri venivano messi sotto salamoia e poi con i fusti. Questi fusti venivano portati al porto di Siracusa e spediti anche all'estero. Perché questo? Perché nella tecnica antica della canditura dei frutti e degli agrumi in particolare venivano prima passati in salamoia, quindi permetteva di trasferire questi frutti, poi arrivati a destinazione venivano dissanati e veniva fatto lo sciroppo per la canditura. Questo era il cedrato. Bene, io volevo innanzitutto dire ai nostri radioascoltatori che aranciata e cedrata non sono le bibite che, come vengono intese, avete sentito, sono tutt'altra cosa. Però voglio chiedere a Federico Graziani anche questi due accostamenti con questo torrone aranciato, insomma, chiamiamolo così, e con la cedrata, se si possono abbinare dei vini. E anche qui viene veramente l'acquilina in bocca. Due vini fuori dal nostro paese che mi vengono in mente. Uno per la cedrata è un Ice Fine da Uwe Riesling della Mosella, che mantiene queste note cedrate molto molto delicate e assolutamente raffinate di agrumi. E invece sull'aranciata credo che un passito, una vendemmia tardiva italiana da Uwe Fiano, Verdicchio o anche altre varietà, oppure un Sauternes piuttosto delicato che ricorda spesso queste note di scorze d'arancia e zafferano, possa essere molto molto indicato, insomma. Ruta, voi avete fatto degli esperimenti, degli abbinamenti con l'aranciata e la cedrata di vino? Sì, in effetti noi ci siamo limitati ai passiti, ai nostri passiti, e l'accoppiata è risultata interessante, perché l'arancia mantiene, essendo soltanto la parte esterna, quindi la buccia, mantiene questi aromi che ben si accoppiano con diversi passiti di Pantelleria, per esempio. Bene, devo dire che il nostro Graziani ha così parlato di Ice Wine. L'Ice Wine è una produzione molto particolare. Io ho avuto la fortuna di vederla, questa, diciamo, vendemmia, una parte in Canada, e quindi devo dire che è molto affascinante, perché vengono raccolti questi chicchi che sono coperti di ghiaccio a delle temperature veramente micidiali. E vorrei anche ricordare che oltre, diciamo, in Austria, oltre in Canada, c'è anche un piccolo produttore, due piccoli produttori in Italia, uno in Piemonte e uno in provincia di Piacenza, che non sempre gli riesce, perché ovviamente le temperature da noi non sempre scendono sotto i 10 gradi. Quindi credo che sia un vino, sicuramente anche questo per le feste, interessante chi lo dovesse acquistare, chi lo dovesse assaggiare, questo Ice Wine, perché a differenza dei passiti io lo ritengo forse più piacevole, meno esplosivo e quindi molto più delicato. Non so se la pensa come me anche Federico Graziani. Assolutamente, infatti è proprio la raffinatezza e la delicatezza che contraddistingue questo passito, diciamo, che subisce una concentrazione da freddo e non da caldo, come avviene generalmente per i passiti italiani. E ne ricordo anche uno in Val d'Aosta, quello del Cave de Vin Blanc de Morgier de la Salle, che è molto molto piacevole anche quello, proprio i piedi del Monte Bianco. Beh, sono tre, non lo sapevo che ci fosse il terzo. Io voglio ricordare che in Canada esiste anche l'Ice Apple, che anche questo è molto ma molto particolare, adatto ai formaggi. Grazie a Federico Graziani, grazie a Franco Ruta, vi auguro buon anno. Il gastronauta. Santa baby, slip a sable under the tree for me. I've been an awful good girl, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Eccoci di nuovo in questo viaggio attraverso i dolci natalizi. Abbiamo detto che si parla sempre di panettone e di pandoro. Oggi vogliamo appunto fare un giro, stiamo facendo un cibo giro per l'Italia, per scoprire anche quelli che sono gli altri dolci, diciamo, del periodo natalizio, che potrebbero essere anche ovviamente prodotti durante tutto l'anno, perché sicuramente hanno una validità, diciamo, di produzione, di gusto e di sapori, che non vedo perché non si debbano produrre anche per il resto dell'anno. Comunque questa è una mia opinione molto personale di goloso. Allora, si parla sempre e quasi di torrone, ma il torrone ha anche altri aspetti, diciamo, come posso dire, altri tipi di produzione che si avvicinano al torrone, forse sono torrone ma si chiamano mandorlato, però ora la differenza vera e propria tra il mandorlato e il torrone, anche storica, la vorrei che la raccontasse un personaggio importante di questa produzione, che è Pietro Scaldaferro, della provincia di Venezia, del torroneficio Scaldaferro. Buongiorno Pietro. Buongiorno Davide, a te e agli ascoltatori. Pietro, possiamo dire che esiste una differenza tra mandorlato e torrone? No, perché il torrone è una parola che racchiude varie tipologie di dolciume, quindi il torrone è il genere e il mandorlato ne è una specie. Quindi il torrone può essere fatto con le nocciole, può essere fatto con le mandorle, può essere fatto con i pistacchi, la frutta secca, altra frutta secca, i canditi, i fichi. E il mandorlato invece è uno specifico torrone fatto con le mandorle e ha la zona di elezione nel Veneto e nella Lombardia. Ecco, la storia del torrone, ci sono varie interpretazioni, quindi sicuramente diciamo che ognuno racconta la propria leggenda, chi lo vuole nato a Cremona, dal nome che deriva dal Torrazzo e quindi una derivazione molto locale. Certamente Cremona è una delle patrie del torrone. Vorrei chiedere, la parola mandorlato quindi deriva semplicemente dal fatto che vengono usate le mandorle, non è che c'è una storia, una tradizione alle spalle di questo prodotto? No, mandorlato deriva proprio fatto con le mandorle. Diciamo che l'etimologia mandorlato deriva dal Veneto, mando e atto, perché è la tipica espressione che avevano i dogi all'epoca, che si facevano commissionare il torrone dagli speziali da grosso, che erano all'epoca i pasticceri che avevano il dominio sullo zucchero, perché Venezia era un'importatrice dello zucchero dall'Oriente, nel 1300 era l'unica detentrice della spezia, e quindi commissionavano questi pasticceri questo dolciume a base di zucchero e mandorle che provenivano dall'Oriente. Ma per quanto riguarda l'etimologia, tu facevi riferimento al Torrazzo, quindi alla celebre leggenda, sì, che vuole il torrone nato per un banchetto tra gli Sforza e i Visconti nel 1441. Sì, certo. Il cuoco aveva fatto questa forma di torrone, perché all'epoca il Torrazzo veniva chiamato torrione e l'etimologia popolare poi l'ha storpiato in torrone. Beh, la cosa secondo me molto bizzarra e molto divertente è che anche la storia, la nascita del panettone, vuole che avvenisse durante un matrimonio, e quindi diciamo che sembra che tutti i dolci nascano per sbaglio, ma credo che molte cose riuscite sono nate per sbaglio, magari di un cuoco o per un errore, quindi per rimediare a un errore. Ma rimani con noi Pietro, ora facciamo un salto in Sicilia, a Noto, da Corrado Assenza. Corrado non so più come definirlo, perché Corrado è un pasticcere a 360 gradi, ma anche tante altre cose, e Corrado diciamo che produce la giuggiolena, ma produce anche vari torroni che lui ha, come posso dire, curato particolarmente e gli ha messo una punta di creatività. Corrado, è così, vero? Ti sei lasciato andare anche sul torrone? Ma sì, perché insomma riteniamo che sia opportuno e appropriato rinnovare quello che è il rapporto culturale che c'è con la nostra terra, con i prodotti che la nostra terra ci offre. La tradizione più alta dell'uomo è quella dell'innovazione, quindi su un filone culturale che è quello dell'utilizzo delle materie prime che il territorio offre, quindi le mandorle, siamo a Noto, la nostra cultiva romana sicuramente è una mandorla di grande elezione, di grande qualità. Il miele dei Montiblei, anche i romani lo indicavano come particolarmente pregiato, e poi miele di agrumi e quindi di essenze che portano da sole ad evocare la presenza della Sicilia, ma poi anche i canditi, le arance candite che sono servite per condire, per aromatizzare uno dei nostri ultimi nati, il torrone morbido di pistacchi di Bronte. Mi è parso eccessivo nel suo gusto profondo, pieno di sapidità vulcaniche che il pistacchio di Bronte ha, mi è parso opportuno riequilibrare il gusto del miele che andava scomparendo, offerto dalla muscolarità del pistacchio, aggiungendo dei pezzetti del nostro candito di arancia. Così come nel Blu Noto, il torrone di Noto morbido, abbiamo aggiunto dei grani di caffè, un caffè pregiatissimo, il Blue Mountain giamaicano, un aroma desueto in un torrone, ma che rifà moderno e attuale il torrone, e come in ogni festa d'Italia è il dolce che fa festa a Natale in tutta l'Italia. Se il panettone ha un'ascendenza e una provenienza della pianura padana, il torrone che si articola in tutte le regioni d'Italia con frutta secca diversa, con mieli diversi, con condimenti diversi, è l'unico vero dolce che fa una l'Italia a Natale. Sì, devo dire che bisogna ricordare anche la Sardegna, perché in Sardegna c'è una grande tradizione anche alle noci, quindi diciamo che non si usano solamente le mandorle e le nocciole, ma si usano anche le noci, quindi diciamo che a 360 gradi il torrone può portare queste chicche nelle case in questo periodo. Voglio tornare un secondo a Scaldaferro per chiedergli: il mandorlato di solito viene identificato a Cologna Veneta, perché questo? Beh, per integrare quello che diceva l'amico con la d'assenza, le derivazioni del torrone, se vogliamo semplificare, sono tre: una viene da nord e viene dalla Francia, una viene da est, che è appunto Venezia, e la terza, che è probabilmente l'originaria, viene da sud, quindi dagli arabi e dagli spagnoli, che hanno portato il torrone sia in Sicilia, sia in Sardegna e anche in Calabria. Quindi queste sono le tre grandi frecce da cui arriva il torrone in Italia. Per quanto riguarda il Veneto, Colonia Veneta fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, ha fatto proprio un polo artigianale e poi ora industriale a Colonia Veneta di produzione di torrone. Il primo torronificio in Veneto è stato quello di Gardotto Rocco in Colonia Veneta, e da lì si sono diramati altri piccoli torronifici che hanno imparato l'arte e fanno un torrone che ancora continua con la tradizione. Grazie. Mentre a Venezia ci siamo noi con il nostro torrone, che ha una chiara derivazione veneziana, e quindi con una scelta particolare di mieli, di mandorle, e continuiamo quella tradizione che è del 1300 di Venezia. Ecco Pietro, io voglio ricordare un tuo torrone con un miele molto particolare, che è quello di Barena. Vuoi spiegare ai nostri radioascoltatori? Io sono andato anche in un'isolotta della Laguna, andare a vedere questo miele di Barena, perché mi aveva talmente incuriosito. Vuoi spiegare tu cos'è la Barena? Allora, la Barena è quella parte emersa della laguna che subisce l'influsso delle maree, quindi tutta la gronda lagunare attorno a Venezia sale e scende la marea in base alle lune, e l'acqua salmastra, perché viene miscolato l'acqua dell'Adriatico con l'acqua del Brenta e gli altri fiumi che si gettano in mare, in quest'acqua salmastra cresce una pianta che si chiama Limonium selvaticum, o sparto della Barena, che ha le radici direttamente nell'acqua salmastra. E questo fiore produce un nettare e un polline con più dell'1% di iodio, ed è uno dei tre mieli salati italiani, con l'elicriso, che cresce nel Grossetano, e poi con il corbezzolo, che cresce in Sardegna. Ma mentre questi due mieli... E anche in Maremma. Ma mentre questi due mieli, l'elicriso e il corbezzolo, sono mieli da spiaggia, cioè la pianta ha le radici in spiaggia e assume lo iodio per osmosi dalle foglie, questo Limonium selvaticum assorbe lo iodio direttamente dalle radici, quindi ha sentori salini, leggermente amarotico, ma è molto vario, quindi non troppo amaro, ma è molto vario, con essenze molto varie. E noi lo utilizziamo nella nostra produzione limitata, limited edition, al miele di Barena, mescolandolo a una mandorla pugliese, una mandorla robusta, la mandorla Filippo Ceo, che è un presidio slow food pugliese, per contrastare questo gusto leggermente salino. Grazie Pietro, grazie, buon anno. Io torno al mio amico Corrado, perché lui è veramente un fantasioso sugli accostamenti, e io voglio chiedere: Corrado, un torrone tipo la Giugiolena, quindi di mandorle o altri tuoi, con cosa si possono abbinare? C'è qualche vino in particolare secondo te? ma i torroni trovano, appunto per la forte presenza di frutta secca al loro interno, trovano facile abbinamento con tutti i vini caldi del cuore del Mediterraneo. Per esempio, per citarne qualcuno, i grandi Marsala di Marco De Bartoli, i Bassiti di Pantelleria, i Solani, dove le note di dolcezza fruttata si sposano con quelle di dolcezza da miele e da frutta secca. Questi sono i connubi più interessanti, oppure potrei anche suggerirvi dei grandi distillati bianchi fruttati, quindi distillati di frutta o distillati di uva, che si possono molto bene abbinare a questi torroni, alla leggerezza di questa dolcezza ricca di note floreali da malte di mandorle e pistacchio. Bene, grazie Corrado Senza, anche a te auguro buon anno, e credo che appunto i torroni, speriamo che questi torroni quest'anno siano tornati, perché per anni, come dicevo, nel periodo natalizio c'è il panettone e il pandoro che diciamo non uccidono, ma sicuramente fanno agio su tutto il resto. Bene, grazie Corrado e a presto. Presto a voi, grazie. Linea alla regia, torneremo fra poco. Il gastronauta. Rosalina, Rosalina, a me piaci grassottina, ma quando è sera. Eccoci di nuovo, diciamo, in giro per l'Italia, armati di un sacco dove mettere dentro torroni, mandorlati, panforti, cubaita e chi più ne ha e più ne metta, sicuramente di dolci natalizi. Bene, abbiamo parlato anche di accostamenti, per ora abbiamo parlato di accostamenti di vino e di distillati, ma in realtà c'è anche un terzo possibile accostamento e sono le birre di Natale. E allora abbiamo con noi Gino Perissutti del birrificio Foglie d'Erba di Forni di Sopra in provincia di Udine, al quale innanzitutto do il buongiorno e voglio chiedere innanzitutto che ci spieghi ai nostri radioascoltatori, perché molti non conoscono, cosa sono le birre di Natale, Perissutti. Buongiorno a tutti intanto e grazie per la chiacchierata e l'invito. Le birre di Natale, beh, significa tutto e nulla in realtà. Solitamente si accosta il concetto di birre di Natale a birre con un tasso alcolico piuttosto impegnativo, piuttosto alto, tendenti al dolce, perché si concepiscono in accompagnamento, appunto in abbinamento a dolci natalizi, però la libertà di interpretazione è assolutamente ampia. Ecco, coi torroni, con diciamo i mandorlati, col panforte, ritiene che sia un accostamento possibile, quindi valido? Assolutamente sì. La bellezza, diciamo, nel movimento artigianale italiano è la varietà di interpretazione un po' in tutti gli stili. L'abbinamento può essere valido soprattutto se consideriamo birre con speziature che si avvicinino a ciò che richiama il torrone o quello che vogliamo abbinarci assieme. Le faccio un esempio: la nostra birra di Natale 2012 è una birra aromatizzata con caffè sidamo dall'Etiopia e del cardamomo e del barbon, pertanto la nota del cardamomo piuttosto che le altre potrebbe richiamare in questo senso a un accostamento del genere. Gino, rimanga con noi perché ora andiamo in Piemonte, andiamo nelle Langhe, che è la terra delle nocciole, quindi è la nocciola forse più prestigiosa che abbiamo in questo paese ed è terra di torroni. Andiamo a Relanghe, al torronificio Relanghe di Alessandro Marengo. Buongiorno Alessandro. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Alessandro, è tornato il torrone in queste feste, è tornato alla ribalta, oppure diciamo che è sempre sotto il trono del panettone e del pandoro? Ma Dio, essendo il dolce più antico d'Italia, si pone secondo me come una costante. Puoi fare classifiche hit parade di conoscenza piuttosto che di successo, è un po' difficile. Indubbiamente il pandoro, il panettone sono più generalizzati, sono più diffusi, anche solo nelle loro varie specifiche componenti oppure specialità. Il torrone, per il fatto che è fatto in tutta Italia, è il dolce che si chiama nello stesso modo in tutta Italia, anche se fatto con altri semi, secondo me è molto più legato alla terra. Sì, è più conosciuto il panettone, ma forse è più diffuso il torrone. Ecco, mettiamola così. Ecco, volevo chiederti, nelle Langhe, quando nasce questa tradizione del torrone? Lontano nei tempi, anche nelle Langhe? Ha circa un 150-200 anni, sicuramente veniva fatto dai pasticceri. Nell'accezione attuale, quindi con le nocciole, è stato l'azienda Sebasta intorno al 1850 a fare questa sostituzione tra mandorla con nocciola. Poi la cosa è andata avanti, è stata ripresa anche da altre aziende, chiaramente. Ecco, il torrone con le nocciole. Voi fate anche dei torroni particolari che oltre alle nocciole, diciamo, ci sono anche altri ingredienti? Allora, principalmente noi facciamo torrone con nocciole nelle due varianti, friabile e friabile ricoperto di cioccolato fondente. Poi chiaramente per esigenze di mercato e anche perché ci piace farlo, facciamo anche con pistacchi e con mandorle e con pistacchi, sempre comunque rigorosamente friabile. La friabilità della pasta è la nostra caratteristica, indubbiamente. Senti, ma tu cosa ne pensi dell'abbinamento? Poi torniamo a Perissutti perché gli facciamo fare questo abbinamento appunto col torrone di cui tu hai parlato. Volevo chiedere, tu cosa ne pensi dell'accostamento con le birre di Natale? Io tanti anni fa provai una birra col torrone e mi piacque molto, quindi non vedo perché no. Non conosco la birra di Natale del signor Perissutti, ma assaggiai delle birre e col torrone venivano decisamente bene, specialmente quelle ambrate, molti anni fa. Senti Alessandro, e invece tu cosa preferisci di accostamento, vino o distillato col torrone? Se voglio così bene al torrone che... Me lo mangio anche senza distillati. Diciamo che io amo molto una cosa a metà, che è un vino che è il Barolo Chinato. Quindi un vino ma con spezie, con aggiunte di erbe e di spezie. Ecco. Sì, sì, certo che il Barolo Chinato è vero, l'ho sentito anche altri, lo suggeriscono. L'importante è ora trovare un Barolo Chinato come Dio comanda, perché insomma di specie di Barolo Chinati ce ne sono in giro. Sì, tu cosa ce ne sono. Ma io sono più per quello, diciamo, di origine contadina. Io distingo due tipi di Barolo Chinati, quello degli speziali, diciamo quello di ceto abbiente, dove le spezie sopravanzavano le erbe, stante comunque l'utilizzo della china da cui il nome. Io preferisco quello fatto dai contadini, quello più erbaceo, quello che sa più di fieno. Due scuole differenti. Importante che sia Barolo buono e fatto con cura, indubbiamente. Rimani con noi, sentiamo, torniamo a Gino Perissutti. Abbiamo sentito, Gino, questo torrone ricoperto di cioccolato e si sposa molto bene le birre di Natale col cioccolato. Assolutamente, ti dirò, mi è capitato recentemente, siccome io amo molto il torrone, di bere due birre di miei bravissimi colleghi, uno il birrificio Lover Beer proprio del Piemonte e uno il birrificio del Forte Toscano, e due birre completamente diverse, entrambe con un torrone classico, ci stavano da Dio per la speziatura molto originale. La mia birra sinceramente non la vedo molto bene, se non per la parte relativa al cioccolato, perché diciamo l'accostamento, essendoci un caffè estratto a freddo, non a caldo, quindi senza le note torrefatte, ma tale da evidenziare questo tipo di estrazione a freddo, la nota gentile, la nota diciamo fruttata del caffè, si sposa bene col cioccolato. Però ci sono molte, soprattutto birre natalizie con un buon grado alcolico, con una speziatura o un richiamo caldo, i lieviti belgi molto aromatici col torrone ci stanno molto molto bene, a mio avviso. Bene, torniamo da Alessandro Marengo, torniamo nelle Langhe. E Alessandro, ma cosa c'ha così di speciale la tonda gentile delle Langhe, che è considerata, costa molto di più di tutte le altre, è considerata un po' la regina? C'ha tutto e c'ha niente. Diciamo che la parte veramente importante la fa il terroir. La varietà è la Core di Savellana, è una varietà antica, diciamo così, nostra autoctona. In più il terroir, cioè quindi, e il microclima della zona gli danno delle percentuali e delle qualità dell'olio superiori alla media, molto più profumata, si pela bene in tostatura e soprattutto, e questo forse è l'aspetto che si conosce meno, ma molto importante, ha una capacità di invecchiamento o di resistenza all'invecchiamento, forse meglio dire, decisamente superiore a tutte le altre nocciole del mondo. Quindi costa anche di più? Costa anche di più, ma anche perché la produzione è abbastanza limitata. Tenete conto che, dato 100 la produzione mondiale, il 70% lo fa la Turchia, noi siamo intorno all'1-2% della produzione italiana, quindi insomma, quindi poca roba. Quindi la qualità tra quella italiana e quella turca è decisamente larga, insomma. È decisamente più larga, soprattutto in ordine a quelle caratteristiche organolettiche che vi ho detto prima, e soprattutto questa capacità, a parte il profumo, la capacità di pelare, di questa resistenza all'invecchiamento. Esatto. Ecco, volevo chiederti un'ultima cosa, fai questo sforzo per i nostri radioascoltatori. Gli ingredienti per produrre il torrone, elencami un po' gli ingredienti, quali sono? Allora, gli ingredienti sono principalmente, almeno nel torrone piemontese, si utilizza nocciole Piemonte per la metà del peso, quindi del miele, un po' di zucchero. E poi ci sono due scuole, una dice albume e una dice gelatina alimentare. Poi chiaramente l'ostia a fasciare il tutto e evitare che si attacchi al blocco. Qualcuno mette qualche essenza, potrebbe essere una mandorla, qualcuno mette un limone. Noi andiamo via così, lisci, perché abbiamo già la nocciola che fa da sé e poi anche il miele naturalmente. Grazie Alessandro Marengo di Tornificio Relanghe, grazie. E torniamo a Gino Perissuti, voglio chiedere, birre di Natale perché hanno questo nome? Cioè perché vengono prodotte solamente in questo periodo, ma io credo che anche in altri periodi vengono prodotte così, e all'estero ci sono le birre di Natale? Dunque, no, è un qualcosa di abbastanza, come dicevo prima, interpretabile. Solitamente vengono prodotte verso la fine, poi dipende molto dalla gradazione alcolica, dalla necessità di invecchiamento. Adesso stanno esplodendo anche qua in Italia le birre affinate in botte, pertanto una birra concepita per un affinamento in botte naturalmente va prodotta con diversi mesi in anticipo rispetto al Natale. Altrimenti il periodo di produzione, si chiamano winter ale solitamente, è immediatamente dopo l'estate per averle pronte per i mesi invernali. Ci sono tuttavia delle birre che sono state probabilmente create per un consumo invernale, se non squisitamente natalizio, che hanno avuto un tale successo da diventare dei grandi classici. Uno su tutti, la Panne Pot di un grande birrificio belga, oppure la Stille Nacht. Ci sono birre non italiane, però che sono diventate dei classici a livello mondiale e molto probabilmente erano state concepite, se non proprio solo per le festività, comunque per il consumo durante i mesi invernali freddi. Non è una categoria a sé, però sicuramente ha ispirato delle produzioni poi diventate cavallo di battaglia o comunque talmente richieste da dover essere prodotte durante tutto il resto dell'anno. Bene, grazie Gino, grazie Perissuti, grazie del birrificio Foglia d'Erba. Bene, volevo ricordare che diciamo in questa trasmissione non abbiamo fatto interventi dalla Sardegna e dalla Campania, ma voglio ricordare che questi due territori sono molto importanti per il torrone, sia la Barbagia in Sardegna, ma sia anche tutta la provincia di Benevento per quanto riguarda i torroni. Quindi ragioni di tempo, e sicuramente appunto non si può far tutto in 45-50 minuti, però voglio ricordarlo che lì ci sono grandi produzioni di qualità come in altre parti d'Italia, quindi la Campania sicuramente e la Sardegna. Poi anche nelle Marche ci sono dei produttori di ottima qualità, quindi un po' tutta Italia produce, appunto perché il mandorle e le nocciole e anche le noci si trovano abbastanza diffusamente. Abbiamo chiuso questo viaggio nel dolce vi auguro buon anno, buon 2013 e un augurio che tutto il 2013 sia dolce come i torroni mandorlati e i panforti. Un caro saluto da Davide Paolini.